Rebecca, un donna di grandi doti ma incapace di aspettare. La dichiarazione di matrimonio comincia come una favola, uno scapolo molto ambito, figlio di un padre ricco ed erede di una grande fortuna, stava cercando moglie. Già prima della sua nascita, l'Eterno aveva promesso di dare ad Abramo una numerosa discendenza. Già egli aveva anche detto che avrebbe stretto un patto eterno con suo figlio e con i suoi discendenti. Pertanto, la madre di questi discendenti doveva essere scelta con molta cura. Isacco era un giovane scapolo e suo padre Abramo fece tutti i preparativi per il matrimonio, fra i quali l'incarico a Eliezer, uomo fidato, di scegliere la sposa. Probabilmente era l'amministratore della sua casa. Gli ordinò di recarsi in Aran, in Mesopotamia, dove Abramo aveva vissuto prima. Alcuni dei suoi parenti erano ancora là. Era convinto che scegliere qualcuno entro il cerchio familiare fosse la miglior garanzia per un matrimonio armonioso. Due sposi dello stesso ambiente avrebbero avuto comprensione reciproca. Pur vivendo in Canaan, a Isacco non era permesso di sposare una donna cananea, perché esse erano sotto la maledizione di Dio, dato che i cananei erano pagani, cioè non adoravano il Dio di Isacco. Unendosi ad una donna di fede diversa, non avrebbe formato con lei una coppia armonica nel cospetto di Dio. Abramo desiderava per suo figlio la moglie scelta da Dio. Egli era convinto che i matrimoni si fanno prima di tutto in cielo. Abramo credeva che Dio fosse personalmente interessato all'unione di due persone. Dopotutto, non aveva egli creato una donna speciale per Adamo, che con lei aveva goduto di un attimo di felicità. Abramo credeva che Dio avrebbe anche scelto la donna ideale per Isacco. Come padre egli poteva dare a suo figlio casa e ricchezze, ma solo l'Eterno Dio poteva dargli una donna adatta a lui. Una buona moglie è una benedizione dell'Eterno. Abramo era certo che l'Eterno stesso avrebbe presieduto al viaggio se glielo avesse chiesto. Perciò incoraggiò il suo amministratore a partire per cercare una moglie a Isacco con la promessa che l'Eterno avrebbe mandato un angelo davanti a lui per assicurargli il contatto con la giusta donna. La preghiera rivela, in quel giorno, nonostante dopo un viaggio di circa 600 chilometri, il servo Eliezer arrivò in Aram, dove viveva Naor, il fratello di Abramo. Fece due cose all'arrivo. Prima pregò per avere aiuto, poi, essendo molto pratico, si diresse nel comune luogo di ritrovo del paese, la fontana, cioè un pozzo. Si avvicinava la sera. Presto le donne sarebbero venute ad attingere l'acqua. Come scegliere la donna giusta per Isacco, fra le tante che sarebbero venute al pozzo? Quale di queste Dio aveva destinato ad essere la moglie del figlio del suo padrone? Tutto dipendeva dalla guida di Dio. Così Eliezer pregò. Pregò per ricevere un segno di riconoscimento. Fai che la donna alla quale chiederò dell'acqua e che si offrirà di abbeverare anche i cammelli possa essere la moglie che tu desideri per Isacco. E, sapendo che una persona può chiedere a Dio qualsiasi cosa, chiese anche di poter aver successo proprio intuito la brevità dell'amministratore. Le donne orientali erano molto timide quando incontravano uomini stranieri. Perciò, se una donna avesse risposto con tanta franchezza, sarebbe stata quella guidata dal Signore. Ma sapeva che la risposta alla sua preghiera avrebbe anche rivelato altre qualità della ragazza. Non era cosa da poco abbeverare 10 cammelli. Infatti, per far questo dovevano essere attinti e trasportati circa 150 litri di acqua. Questo richiedeva buona salute e forza fisica. La donna che avrebbe dovuto rappresentare un anello nella catena della grande discendenza promessa da Dio ad Abramo doveva essere forte e piena di salute. Questa azione avrebbe rivelato anche qualcosa del suo carattere, gentilezza e volontà di servire. Doveva essere anche questa una caratteristica della moglie di Isacco. Grande efficienza ed abilità per svolgere un lavoro duro sarebbero stati indispensabili per l'esistenza nomade che avrebbe dovuto condurre col marito. Sarebbe anche stato utile se avesse dimostrato iniziativa e di avere idee sue. Isacco era figlio di genitori già anziani ed era rimasto scapolo fino a 40 anni. Era fortemente attaccato alla madre e non era un uomo di grandi iniziative, perciò sua moglie avrebbe dovuto completarlo con le qualità che lui non possedeva. Il servo di Abramo aveva pregato a bassa voce e nessuno aveva sentito la sua richiesta. Aveva appena finito di pregare quando qualcosa dentro di sé lo consigliò a alzare lo sguardo. Lì davanti a lui c'era una ragazza con una brocca sulle spalle. Il grande era giovane, bella, e mentre si avvicinava, forse ebbe la forte sensazione di aver trovato la risposta alle sue preghiere. Questa doveva essere la moglie di Isacco. La giornata era cominciata come tante altre per Rebecca. Niente indicava che sarebbe stata una giornata storica e decisiva per lei. Non avrebbe neppure pensato di avere il ruolo più importante in una storia d'amore che avrebbe toccato i cuori per migliaia di anni dopo. La passeggiata giornaliera al pozzo era prosaica, come quella di ieri e come quella del giorno precedente. Perciò, quando arrivò al pozzo, sentiva probabilmente una certa tensione nel notare lo sguardo dello straniero. Fu contenta di esaudire la sua richiesta di acqua. «Perché il mio cuore batte così leggero, così felice, come se stesse aspettando qualcosa?» si chiedeva. Sembrava che qualcosa fuori di lei le desse una forza strana alle mani. Voleva fare qualcosa di speciale per questo gentile, vecchio signore. Perciò si offrì di abbeverare anche i cammelli. Ci volle molto tempo prima di dare da bere a tutti quegli animali. Fu soddisfatta. Eppure, quel sentimento leggero di felicità era ancora in lei. Completò il duro lavoro con diligenza. Gli occhi insistenti dello straniero non l'avevano lasciata neanche per un secondo. L'aveva osservata continuamente. Quando il lavoro fu terminato, le diede dei doni d'oro. Lei restò sorpresa di ricevere dei doni così importanti per un lavoro così piccolo. Ma, dalla gente che era con lui, comprese che era un uomo ricco. «Dimmi di chi sei figlia», chiese Eliezer. Rebecca notò una leggera tensione nella sua voce. Lei rispose: «Io sono figlia di Betuel. Egli è il figlio di Mica e Naor. È la figlia dei fratelli di Abramo». Allora Eliezer chinò il capo e ringraziò l'Eterno, il Dio di Abramo. Quando, nella preghiera di Eliezer, Rebecca udì menzionare il nome Abramo, il suo famoso prozio, si rese conto del lungo viaggio intrapreso da quell'uomo al fine di incontrare la sua famiglia. Così corse ad avvertire i suoi, i quali lo invitarono a casa loro. A causa di tutto l'eccitamento, nessuno dormì bene nella casa di Betuel quella sera. Dopo aver ascoltato la storia di quell'uomo, erano venuti alla conclusione che Dio aveva guidato tutte le cose. Sentivano quanto la ricerca della moglie di Isacco fosse ancorata alle promesse di Dio. Come la nascita di Isacco era la prova dell'adempimento di una delle promesse di Dio, così anche questo matrimonio era collegato alle promesse di Dio. La sua fiducia in queste promesse era la ragione delle azioni di Abramo. Mandando Eliezer in cerca di una sposa, Abramo era convinto di far la volontà di Dio, eppure lo era in merito all'esaudimento delle sue preziose preghiere. Abramo ed Eliezer non furono delusi. Dio aveva chiaramente mostrato la sua via. La guida di Dio fu rivelata anche dal fatto che i parenti erano d'accordo. La cultura al tempo di Rebecca prevedeva che il matrimonio non fosse deciso solo dai due sposi. Gli altri, specialmente i genitori, erano coinvolti nel consigliare. Benché la famiglia avesse rivelato la sua opinione, l'ultima parola spettava a Rebecca. Alla domanda «Andrai tu con quest'uomo?» la giovane rispose con un fermo assenso. La sua risposta era un grande passo di fede. La distanza tra la sua futura casa e quella dei genitori era tale da significare che forse non sarebbe mai ritornata. La prospettiva era di una vita di separazione. Rebecca, nipote di Naor, mostrò un po' della stessa qualità di fede del fratello del nonno, Abramo. Conosciuta la volontà di Dio, ubbidì incondizionatamente, come aveva fatto Abramo. Era preparata ad adattare la sua vita a qualsiasi richiesta del futuro marito. Si incontrarono per la prima volta in un campo. Egli era uscito per parlare con Dio, sapendo che la carovana poteva ritornare in qualsiasi momento. Rebecca vide un uomo che si avvicinava alla carovana. Quando seppe che era Isacco, si coprì il viso con un velo, perché una sposa nell'Oriente non deve mai mostrare il viso allo sposo fino alla cerimonia del matrimonio. A Isacco la sposa ricordava la madre. Come Sara, Rebecca era intelligente, energica, aveva una forte volontà ed era deliziosa. Era tutto quello che Isacco avrebbe potuto desiderare in una donna. Egli l'amò ed ella ricambiò il suo amore. La storia è molto più interessante delle favole, perché le persone sono fatte di carne ed ossa, di emozioni, di ragione, di speranza e di disperazione. Rebecca, una giovane sconosciuta, diventa parte della storia di Abramo, padre della fede giudaica, e di tutti i credenti, l'amico di Dio. Entrò sulla soglia di un futuro pieno di promesse. Che cosa ne avrebbe fatto? Rebecca diventò sospettosa quando vide il figlio maggiore Esaù entrare nella tenda di Isacco. Di che cosa stanno parlando quei due? Si domandava. Spinta dalla curiosità, spiò Isacco, l'uomo che, anni prima, aveva considerato un dono da Dio. Incredibile! Il dialogo fra Rebecca ed Isacco si era ridotto a poche parole. L'unità della famiglia si stava sfasciando, la famiglia si era divisa, spaccata in due, da una parte lei e Giacobbe, dall'altra Isacco ed Esaù. Pare che fossero stati proprio i due figli a separare Isacco e Rebecca. Infatti i ragazzi, anche se gemelli, erano diversi come il giorno e la notte. Esaù era peloso, un uomo duro e rozzo sia fisicamente sia nel carattere. Amava vivere all'aperto e nutriva una grande ammirazione per suo padre. Dal canto suo Isacco apprezzava molto Esaù e gli piaceva la carne che il figlio gli procurava con la caccia. Giacobbe, il figlio nato dopo, era più esile ed astuto. Di solito stava a casa ed era il favorito della madre. La nascita dei figli avrebbe dovuto avvicinare Isacco e Rebecca, ma sfortunatamente sembrò dividerli. L'amore di Rebecca per Giacobbe era basato su quello che Dio aveva detto prima che i bambini nascessero. Ma quel giorno Rebecca non aveva tempo per riflettere. Non era un giorno per pensare al passato. C'erano altre cose da considerare. Il futuro del suo caro figlio Giacobbe era in gioco. Evidentemente, non pensava che il futuro del figlio riguardasse anche il popolo di Dio, oltre naturalmente suo marito ed Esaù. Lei trascurò di consultare Dio nel suo progetto, anche se il Signore stesso le aveva dato delle precise indicazioni per il futuro. Rebecca, pur avendo 80 anni, non aveva perso l'acume dell'intelletto o la capacità d'azione. Oriò la tenda del marito Isacco, il quale aveva oltre 100 anni, e sentì che stava preparandosi per la morte. La benedizione che tanto tempo prima gli aveva dato suo padre Abramo, ora doveva passare al figlio maggiore. Si trattava di un atto solenne che si svolgeva tra padre e figlio, un atto che veniva sempre celebrato con un pranzo. Rebecca era allarmata, qualcosa non andava bene. Non aveva l'Eterno Dio chiaramente predetto prima della nascita dei figli che il maggiore avrebbe servito il minore? Per lei la promessa di Yahweh stava per essere rovinata dal progetto che udiva uscire di bocca a Isacco. Non poteva permetterlo. Rebecca capì perché l'Eterno Dio preferiva Giacobbe. Esaù aveva dato prova di non considerare seriamente i comandamenti di Dio e aveva venduto il diritto di primogenitura che era sacro al cospetto di Dio. Con grande leggerezza e disprezzo aveva scambiato la sua primogenitura per un chiatto di lenticchie. Per di più Esaù aveva sposato delle donne pagane. Tutto questo aveva causato molto dolore ai suoi genitori. Giacobbe, pur avendo palesato di non essere un esempio di lealtà quando con astuzia aveva ottenuto il diritto alla primogenitura, aveva però dimostrato di credere all'importanza delle benedizioni di Dio. La sua vita era più rivolta a Dio di quella di Esaù, non c'era dubbio. Nel passato i genitori, avendo visto il comportamento dei figli, avevano pregato. Rebecca in particolare aveva già implorato Dio quando si era resa conto con sorpresa che i due figli litigavano fra loro anche durante il periodo della gestazione. Come mai la Bibbia ci dice che pregò soltanto Rebecca? Forse i due sposi erano entrati nell'abitudine di non condividere i loro pensieri. La svelta ed intelligente Rebecca aveva mai amato. Il debole Isacco, che era molto più vecchio di lei, aveva Isacco cercato di conquistare il suo amore. E l'intenso amore che avevano per i figli non era forse un mezzo per rimpiazzare la mancanza di unità dei loro cuori? O si erano divisi perché avevano attribuito poco valore alla parola di Dio? Il matrimonio che Dio paragona al legame fra Cristo e la sua Chiesa può solo essere felice se i due partner collaborano insieme. Pur essendo l'uomo e la donna uguali davanti a Dio, questi hanno diverse responsabilità nel vincolo matrimoniale. L'uomo è il capo ed è responsabile per la donna. Egli deve amarla e deve guidarla secondo la parola di Dio. Egli deve onorarla perché lei è il vaso più debole. La donna deve adattarsi al marito, deve ubbidire e seguire la sua guida. Il segreto di questa relazione è Cristo. Il matrimonio si realizza appieno secondo il volere di Dio quando i due partner si sottomettono l'uno all'altro, perché si sottomettono a Cristo. Dentro questa cornice, i due si trovano in armonia con la creazione di Dio e sperimentano la soddisfazione interiore più profonda. Quando entrambi adempiono a queste condizioni, il matrimonio funziona come una felice unità costruttiva. Dio provvede una vera famiglia e protezione per ogni membro di cui essa è composta. Il matrimonio, così inteso, diventa la più importante pietra della società. La più grande ambizione per una donna animata da questa prospettiva è di aumentare il benessere del marito. Come è scritto, lei gli fa del bene e non del male per tutti i giorni della vita. Se la moglie governa la sua famiglia, guidata da questa convinzione, il marito e i figli la benediranno e si considereranno fortunati. Benché Rebecca non avesse questi requisiti scritti su un foglio di carta, certamente li conosceva, come li conosceva Sara, sua suocera. Ma sfortunatamente non agì secondo questi insegnamenti. Neanche Isacco, tuttavia, era senza colpa. È da chiedersi se Isacco come marito avesse esercitato la propria autorità nella maniera in cui Dio si aspettava. Sfortunatamente, Rebecca prese in mano la situazione. La donna che aveva avuto sufficiente fede da confidare in Dio per un futuro sconosciuto, ora sentiva di dover aiutare nella realizzazione degli avvenimenti. In questo caso Rebecca non ebbe abbastanza fiducia nel Dio eterno e potente. Non credette che Dio avrebbe adempiuto le sue promesse verso Giacobbe anche senza il suo intervento umano. E anche questa volta non volle discuterne con suo marito. Forse era proprio questa, l'occasione per avvicinarsi l'uno all'altro. Ma Rebecca decise, senza esitazione, di ingannare sia il marito che Esaù. Giacobbe non era preoccupato per il fatto dell'inganno in sé. La sua sola preoccupazione era di essere scoperto e ricevere una maledizione. Rebecca, dal canto suo, era pronta a fare qualsiasi cosa per inoltrare la sua causa. Il vuoto fra lei e Dio era così grande che lei non aveva più paura di essere maledetta e sembrò addirittura temeraria quando disse: «Prenderò su di me la tua maledizione, figlio mio». Tutto avvenne in un attimo. Prima che Esaù entrasse nella tenda del padre con un piatto caldo di carne, Giacobbe gli aveva già rubato la sua benedizione. Rebecca pensava di aver vinto, ma si sbagliava. Aveva perso. La sua azione astuta portò grande dolore a Isacco, il cui nome significa «quello che ride». Ma ora Isacco non aveva più niente per cui ridere. E se Esaù una volta aveva rispettato la madre, ora non più. Rebecca aveva anche danneggiato Giacobbe, il suo favorito. Col suo aiuto, egli aveva ingannato il padre, mentendo. Egli aveva calunniato il nome di Dio, quando aveva detto a suo padre che Dio gli aveva dato buon successo nella caccia. E non bastava. Giacobbe era diventato un ingannatore perfetto. Poteva ben dire di essere astuto come la madre. Il fatto di essere stato benedetto nonostante tutto ciò è da attribuirsi alla grazia di Dio, non certo al merito di Giacobbe. In seguito, Giacobbe avrebbe imparato con grande dolore che colui che inganna sarà ingannato. Prima sarebbe stato raggirato dal suocero, poi dai propri figli. Quante volte Giacobbe si sarà chiesto se era veramente un uomo benedetto da Dio, dal momento che sua madre non aveva permesso a Dio di benedirlo di propria iniziativa. La benedizione rubata era una possessione, ma sempre una cosa incerta. A causa dell'azione di Rebecca, Esaù desiderò uccidere Giacobbe. Questa situazione portò di nuovo all'inganno e Giacobbe dovette allontanarsi dai suoi genitori. Il fratello di Rebecca, Labano, abitando in Aran, costituì un buon nascondiglio. Quando Giacobbe aveva più di 40 anni, Rebecca andò da Isacco e gli disse: «Queste mogli straniere di Esaù sono per me un peso. Preferirei morire piuttosto che vedere anche Giacobbe sposarne una». Era la verità. Assieme a Isacco aveva sofferto molti dispiaceri a causa del matrimonio di Esaù. Esaù non pronunciò alcuna parola di risentimento verso la madre per l'inganno ricevuto. Forse Rebecca si era sopravvalutata. Ma i suoi errori non erano finiti, infatti fece una falsa promessa a Giacobbe, affermando che l'avrebbe richiamato quando l'ira di Esaù si sarebbe placata. Ma non poté mantenere questa promessa perché non visse fino al ritorno di Giacobbe. Lei vide il figlio prediletto per l'ultima volta, quando partì per trovare moglie. Quando ritornò a casa molti anni dopo, il padre viveva ancora. Esaù aveva ottenuto quello che voleva, diventando ricco sfondato. Inoltre i fratelli si riconciliarono. Ma Rebecca ormai era morta. Rebecca, come Sara, la moglie di Abramo, era incapace di prevedere gli effetti duraturi delle sue azioni sbagliate, e, cioè, l'odio che sarebbe sorto nel cuore dei discendenti di Esaù nelle generazioni future. Per molti secoli gli Edomiti, discendenti di Esaù, sono stati grandi nemici degli Israeliti. Erode il Grande fece uccidere i bambini di Betlemme e suo figlio. Erode e Antipa, l'uomo che derise Gesù al suo processo, erano entrambi Edomiti, uomini della Idumea. Rebecca, la donna che era stata così attentamente cercata per essere moglie di uno sacco, una donna scelta da Dio, non era riuscita in ciò che ci si aspettava da lei. Il suo inizio era stato buono, ma la sua fine molto meno. Non aveva avuto abbastanza pazienza nell'attendere che si realizzasse il piano di Dio. Aveva voluto dare una mano alla sorte, senza attendere che Dio combattesse per lei. Aveva dimenticato che coloro che non credono non possono essere vittoriosi, hanno bisogno di affrettarsi. Rebecca aveva trascurato di dare a Dio l'opportunità di mostrare quello che egli può e vuole fare per coloro che sperano in lui. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti.